Un modo c'è per diventare migliore. Inizia a viaggiare col cuore.

Buon microfono. Ah, ci siamo. Allora, seri, tutti e due. Qualunque cosa io dica. Ok? Non ho detto ancora niente. Allora, 28 meno 18 fa 10. 4 volte 10 fa 40. O 40. 40. Meno 2 fa 38. Ma i 2. Los 40 mi fomentas. Vai, Fabiolas.